Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Nicola, la notte del tuo arrivo a Delhi ci saranno ad aspettarti in aeroporto mio cugino Baljit e sua moglie. Perfetto, pensai. Genti amiche che mi aspettano e mi portano in salvo. Ecco, non andò proprio così. Mi chiamo Nicola Ferrero, 42 anni e vivo a Bra. Ho lavorato 10 anni per Zulu Food, con cui collaboro ancora come freelance. E sono socio con altri 5 amici di un bar bellissimo nella mia cittadina. Quello che sto per raccontarvi succede di solito a chi viaggia. A chi viaggia tanto, ma anche a chi viaggia poco, ma comunque viaggia, va in giro per il mondo. E di solito succede a chi si fida. Cioè a chi viaggia e si fida di qualcuno che gli dice: ma non ti preoccupare, dov'è che vai? In Bangladesh? Perfetto, allora ti faccio trovare mio zio che lavora là da 15 anni all'aeroporto. A che ora arrivi? Alle 2? Guarda, gli dico di arrivare alle 2 meno un quarto all'aeroporto, ok? Mio zio c'ha i baffi, è un signore non tanto alto, ti viene ad aspettare. Ecco, di solito succede a chi si fida e a chi viaggia tanto di avere delle sole incredibili dall'altra parte del mondo, cioè di avere degli appuntamenti che vanno totalmente a buca dall'altra parte del mondo e ti ritrovi da solo come un cane senza sapere cosa fare. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e il programma è Voi Siete Qui. Ogni giorno raccontiamo il pezzo di vita di una persona, ogni giorno raccontiamo una storia e oggi ne raccontiamo più di una, perché raccontiamo la storia di Nicola, a cui è successa questa cosa. Si è trovato da solo dall'altra parte del mondo, come dire, beh, e adesso? Ma raccontiamo anche la storia di tutti quelli a cui questa cosa è successa e che hanno voglia di raccontarcela in diretta all'800240024. Oggi al telefono in diretta a Voi Siete Qui per raccontare questa roba qua. Voi siete partiti da Milano, da Torino, da Roma, da Catania, da Palermo, da Napoli e andavate dall'altra parte. C'era un vostro amico che, guarda, io parto 2 giorni prima perché voglio fare una passeggiata da solo nel bosco. Poi tu arrivi e ci vediamo al Bragamular Inn alle 19, ora locale ovviamente. Mi raccomando, porta lo zaino, io ci avrò la stanza numero 4. Arrivi e lui non c'è. 800240024. Erika scrive: Parigi 2007, viaggio della maturità. 5 amiche in Interrail e morisse il proprietario dell'appartamento dove dovevamo stare. Non si è mai presentato. Se vi ascolta, Maurice, dove ti trovavi? 800240024. Maurice, se sei da qualche parte e ci stai ascoltando. E poi Nadej ci scrive: New York 1996, primo viaggio da sola. Doveva aspettarmi l'autista dell'università estiva dove dovevo andare. Non si è fatto vedere. Sono stata aiutata da una famiglia trovata in aeroporto, per fortuna, casualmente. 800240024. Perché poi di solito succede così, che ti trovi da solo a Nuova Delhi, come succede esattamente a Nicola, e qualcosa te lo devi inventare. Cominci a immaginare tutte le possibilità per contattare il tizio che doveva esserci e non c'è, e poi quando non le trovi semplicemente cerchi un tetto sopra la testa o qualcosa da mettere nello stomaco. 800240024. Siete in ascolto in questo momento e vi viene in mente che è successo esattamente così anche a voi. Se non avete voglia o se non vi è successo, semplicemente ascoltatevi la storia di Nicola. Estate 1997, India. Il mio amico Pietro, con cui ero già andato nel 95 in Nepal e con cui avrei fatto numerosi altri viaggi, mi aveva lodato in maniera sperticata i brulli paesaggi del Ladakh, la regione al confine tra India, Pakistan e Cina, che appartiene sì all'India, ma che morfologicamente è sul plato tibetano, dove le facce sono tibetane, la religione più praticata è il buddismo, e il monasterio Gompa sono ovunque. Zona meravigliosa e perfetta per dei lunghi trekking, colli che arrivano a 5.000 metri. Io ero contento e curioso e anche un po' impaurito e non vedevo l'ora di caricare lo zaino in spalla e andare. Poi successe che Pietro decise di partire un po' prima, per farsi un giro un po' più duro e cercare di scalare, che poi scalare per modo di dire, si arriva in vetta praticamente con una lunga passeggiata. Comunque, arrivare in cima a un 6.000 metri, lo Stok Kangri. Ci vediamo a Leh, mi ha detto, Guarda, ti faccio sapere la guest house in cui devi andare. Lascio lì il mio zaino e ci si vede là il 28 di agosto. Ho viaggiato molto, soprattutto quando ero un po' più giovane. Adesso è qualche anno che non faccio più i viaggioni. Però i posti che sono rimasti nel cuore, beh, l'India assolutamente. In India ci sono poi andato altre 4 volte dopo quella del racconto. Il Nepal, in cui sono andato 2 volte. Il Pakistan e l'Argentina, sì, la Patagonia argentina. In quel momento l'entusiasmo calò drasticamente. Ma come? Viaggio da solo fino in India. Dormo da solo in quella terra di mangiatori di uomini e il giorno dopo mi prendo l'aereo per andare fino a Leh. Intervenne a quel punto Inder Singh, amico di famiglia da 20 anni e uno dei più grandi giocatori di hockey su prato di sempre. Si era trasferito a Bra nel 1971 per giocare nella nostra squadra e portarla al primo scudetto. Poi aveva preso moglie e aveva fatto un figlio e si era stabilito qui definitivamente. Lui mi disse: Nicola, non c'è problema. La notte del tuo arrivo a Delhi ci saranno ad aspettarti in aeroporto mio cugino Baljit e sua moglie. Dormirai a casa mia e loro ti prenderanno già il biglietto per lei. Perfetto, pensai io. Ci sono genti amiche che mi aspettano alle 2 del mattino e che mi porteranno in salvo. Ecco, non andò proprio così. Questo è il mio diario di viaggio. 27 agosto, ore 10:50, mi trovo all'hotel Jukaso Inn. Ovviamente, in aeroporto, non c'era nessuno. Taxi alle 3 di notte, preso albergo in Connaught Square. Impossibile dormire per paranoia, rumori e pioggia. Tra l'altro, sono riuscito a prendere la carta dell'università al posto della carta di credito. Bravo coglione. In hotel ho provato a pagare con quella e quando mi sono accorto che avevo preso la carta sbagliata mi è calata ulteriormente la tristezza. Ottimo inizio di viaggio. Ora aspetto la telefonata di qualcuno che mi dica che cosa diavolo fare. Ore 12. I parenti di Inder verranno qui alle 19:30, mi hanno detto. Io resterò in hotel a cercare di leggere e di dormire. Fuori piove e fa un caldo allucinante. Sporcizia e povertà aspettano dietro l'angolo per morderti il cuore. Fa un po' paura essere soli qui. I tipi dell'hotel sono molto gentili. Ora spero veramente che domani ci sia l'aereo. Fuori è India. कोई कैसे खो जाता है सुर तार से मिल जाता है जीवन साथी कोई कैसे बन जाता है Ore 22:30, è appena finita la cena con Baljit e signora. Persone squisite. Il volo per lei domani ci dovrebbe essere. Mi hanno dato il biglietto. Intanto giro per Connaught Square veramente macilenta, odori allucinanti, cani randagi, il caldo è umidissimo. Prima al ristorante avevo voglia di piangere. Sconforto che la moglie di Baljit ha colto. Mi ha preso la mano, mi ha sorriso, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto «Non ci si deve preoccupare troppo mai». In qualche maniera si aggiusta tutto. E lì, in quel momento, è come se mi fosse scomparso un peso dallo stomaco. È come se avessi aperto per la prima volta davvero gli occhi da quando sono arrivato. Da quel momento, probabilmente, il viaggio è stato il più bello della mia vita. E Baljit e signora che poi ho rivisto l'anno dopo, perché invece l'anno dopo sono venuti a prenderci all'aeroporto quando sono tornato con un mio amico, sono due persone splendide che ho avuto modo con gli anni di conoscere e di vedere anche a Bra, perché appunto il cugino Inder viveva qua e loro una volta sono anche venuti a trovarlo e siamo andati a pranzo insieme, sì, due splendidi indiani, distratti ma splendidi. Il volo per lei in perfetto orario. L'incontro con Pietro la sera stessa dell'arrivo, un trekking di 15 giorni, con 3 ragazzi e una ragazza francesi, tra yak, monasteri e paesaggi lunari a 4.000 metri d'altezza. E poi il ritorno a Delhi prima di prendere un treno e raggiungere Benares in 25 ore. È una settimana in quella città che sembrava uscita dalle pagine di Corto Maltese, in cui vita e morte viaggiano a braccetto per davvero. Ecco, quel viaggio mi ha insegnato alcune cose. Ad esempio che non sempre quel che parte male può poi migliorare. E che un po' di tranquillità e di ottimismo in più non guastano mai. Che il tempo è un concetto relativo, variabile. E che una frase tipo «il bus dovrebbe arrivare alle 16», ad esempio, non deve essere necessariamente presa alla lettera. Perché ci potrebbe essere una foratura, un carro ribaltato in mezzo alla strada, l'autista che si perde in chiacchiere in un DABA, una frana o un ingorgo. E che alla fine funziona anche così. Che si muore. Che la morte esiste, per davvero. La vedi per strada, tutti i giorni. Mucche morte, topi morti, uomini morti. E uomini vivi, che per contrasto sembrano ancora più vivi. Colorati, che non nascondono la morte dietro cerone, vestiti eleganti e sorrisi imbalsamati. Che ci sono gusti e odori che non avresti neanche immaginato e che smuoversi dalle proprie abitudini, dalle proprie convinzioni, in fondo fa molto bene. Il problema è mantenere quell'attitudine una volta che si è tornati a casa. Another mile. Thank you, driver, for getting me here. You'll be an inspector, have no fear. Nicola non ci ha mandato una fotografia, ci ha mandato un ritratto fatto da un illustratore che devo dire è bellissimo, Nicola, ed è bellissimo anche all'illustratore. Ricorda un personaggio dickensiano, andate a vedervelo sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina Voi Siete Qui. È un incrocio in realtà tra un personaggio di un romanzo di Dickens e uno di quei disegni su cui l'ombroso decideva che questo è sicuramente un delinquente. 800240024. Oggi raccontiamo la storia di Nicola, che si è trovato dall'altra parte del mondo, aveva un appuntamento e a quell'appuntamento non c'era nessuno. Capita questo, capitano occasioni simili. Claudio dice: credo che a parte la negatività del contrattempo, alla lunga una cosa del genere si riveli un'ottima opportunità per darsi da fare. 2 anni fa mia figlia 17enne, insieme alla sua giovane amica, fu buttata letteralmente fuori di casa dalla famiglia gallese che la ospitava tramite un'operetro milanese, eccetera eccetera. Il tutto perché avevano fatto notare che avevano pagato per una stanza a 2 letti e non a 5 come si erano trovate. Non si persero d'animo, chiamarono un taxi, chiamarono un referente e si trovarono in un posto migliore. Credo che adesso mia figlia sia ancora più tosta e non si faccia prendere alla sprovvista da uno spiacevole imprevisto. Non so se Nicola sia più tosto di prima dopo essersi trovato da solo a Delhi, ma tant'è, delle volte succede anche questo. 800240024. È successa una cosa simile ad esempio a Diego. Pronto Diego? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene. Mi viene ancora da ridere per quello che è successo 30 anni fa esattamente, nell'84. Da dove mi chiami Diego prima? Monza. Da Monza, ok. Che cosa fai nella vita? Adesso sono consulente, sono ingegnere. Ok, sei ingegnere cosa? Civile? Civile, sì. Civile. Quindi sei consulente di? Impianti idroelettrici. Fammi un esempio, tipo stamattina di cosa hai parlato? Stamattina ho parlato di come si doveva modificare un fabbricato di centrale per piccoli impianti idroelettrici per produrre elettricità con piccoli affluenti, insomma, certo, quello che attualmente è rimasto in Italia, perché le grandi risorse idriche sono state già sfruttate, però c'è tanto da fare ancora. Beh, guarda, sono già eccitatissimo da tutti questi termini tecnici che hai sciorinato. Invece andiamo là nel 1984. 84. Cosa è successo? Cosa è successo? Dall'inizio. Allora, io dovevo incontrarmi al Pireo, il porto di Atene, certo, nella marina, diciamo, il porto turistico, con mio caro amico italiano che mi aveva invitato per andare in crociera con lui sulla sua barca a vela. Ok. Io parto tranquillo, aereo tranquillo, arrivo alla fine tutto perfettamente puntuale al Pireo. Essendo un ingegnere, insomma, da questo punto di vista stiamo in una botte di ferro. Quindi arrivi al Pireo, scusami, il Pireo nell'84 che posto era? Un casino. Ok, perfetto, perché so che anche adesso diciamo un pochettino è delirante, sì, però... È estremamente mal organizzato, molto sporco, vabbè, insomma, perché... Benissimo, un saluto ai greci all'ascolto nel frattempo. Sì, certo. E dicevamo, insomma, sei al Pireo. E c'è sì, il tuo amico? Sì, no, non c'era nessuno. E vado, ho girato tutte le banchine, ho chiesto alla capitaneria, al comandante del porto, nessuno aveva visto questa barca. Io avevo la descrizione, avevo anche la sigla, perché c'ero stato già a bordo in questa barca a vela, molto bella, era una barca italiana. Sì. Allora, cosa ho fatto? All'inizio mi sono un po' disperato, in effetti, perché stava saltando tutta la vacanza. La prima notte l'ho passata intrufolandomi, naturalmente senza far danni, su una barca a vela ormeggiata, e ho dormito nel pozzetto in qualche maniera, perché non sapevo. Ma chiedendolo oppure? No, cioè proprio. Ah, perché non c'era nessuno sulla barca? Nessuno. Ok, sì, quindi sì. Barca ormeggiata, ti infili a dormire. Non c'era neanche nessun controllo, era tutto un po'. Ma erano affondati maniera. Questi qua? No! Te lo dico dopo. Ok. Ah, è tanto lunga. Semplicemente. Poi ho dovuto organizzarmi e sono riuscito a trovare un posto in un albergo molto, era l'unico disponibile, molto squallido, sporchissimo, veramente, ti giuro. Okay. L'ho dovuto ripulire prima di poter entrare nella camera. L'ho fatto io la pulizia personale. Vabbè, ancora che c'è l'ascolto, chiaramente un grande saluto da parte di nostra e di Diego. Poi cosa ho fatto? A questo punto mi sono detto, devo cercare a tutti i costi di rintracciare la barca per poterli raggiungere, almeno che non sia successo qualcosa. E cosa ho fatto? Sono andato alla Marina Militare greca, e un po' in inglese, un po' in italiano, perché qualcuno riusciva a capire qualcosa. Sì. Ho spiegato, ho descritto esattamente come era fatta la barca, e dopo un paio di giorni di ricerche frenetiche, perché pensavo che fosse successo qualcosa anche magari a questo punto lo pensiamo anche noi, certo. Esatto, l'hanno trovata nascosta, ridossata. Sì, certo, perché c'era un Meltemi furibondo, non erano riusciti a risalire fino al Pireo, quindi si erano ricoverati in una piccola baia a sud. È perfetto, erano lì, insomma, il Meltemi è il vento più forte, diciamo, il vento principale che spira in Grecia. Diego, scusami, ma un contatto radio, che so io, non potevano lanciarlo, non potevano dire, guardate... Allora, il bello arriva adesso, perché... Non è ancora finita, Diego, ma sei il mio idolo, ma non mi hai mai dato una storia, scusami, al programma. Ma mandamela, cosa aspetti? Quindi, scusa, andiamo, abbiamo quasi finito, ma a questo punto le altre telefonate in attesa, vediamo se ce la facciamo. Dicevi. Certo. Allora, a questo punto la barca era alla fonda in questa piccola baia a sud di Mykonos. Tu a nuoto? No, a nuoto. I militari, la marina militare, si presenta quindi a bordo, ufficialmente. E ci fu un parapiglia micidiale, perché in quegli anni, insomma, si aveva l'abitudine di fare delle belle crociere, diciamo, divertenti, Ok, chiarissimo. Quindi, diciamo, c'era parecchia roba a bordo. La vacanza è saltata a tutti, sostanzialmente. No, fortunatamente no, perché loro sono rimasti sconvolti dalla paura, però quando si sentì dire che semplicemente li stanno cercando un loro amico. Li stava cercando, e perché aveva, Diego, quanti anni c'hai tu? 62. Sì, e c'hai una famiglia, c'hai dei altro figli, che? Altro sì, che. Sì. E questa è una delle storie più allegre. No, lo voglio sperare. Ma ti capita spesso di raccontare storie in casa, che sei a cena, a pranzo? Qualche volta sì. No, così, perché mi piace moltissimo il tuo modo di raccontare le cose. Diego, qual è la risorsa idrica più importante che abbiamo in Italia? La risorsa idrica? Abbiamo le grandi centrali idroelettriche che sono state fatte nell'Alta Valtellina, ancora nell'Ottocento, per illuminare tutta Milano. Poi ci sono tantissime altre grandi centrali. Ma il problema è adesso non tanto delle grandi, è cercare di sfruttare in maniera intelligente e senza creare troppi problemi all'ambiente anche le piccole risorse. Persino gli stessi acquedotti comunali. Si può attaccare una piccola turbina produrre... E via. Diego, io ti ringrazio moltissimo, ma ti chiedo, a questo punto non ho più tempo per altre telefonate, ma ti chiedo di mandarmi una storia però. Voi siete qui, @radio24.it. D'accordo, Matteo. Ciao Diego, grazie. Ciao. Allora, niente, chiudiamo ringraziando Diego ovviamente e la sua storia sul Meltemi, e un saluto ai greci di nuovo. Chiudiamo dicendolo per la prima volta che quelli che sono stati al live che abbiamo tenuto al Pirelli Store nello scorso aprile, se sono divertiti possono tornare. Chi invece non ha avuto modo di esserci può tornare lunedì 12 maggio in diretta alle 16. Voi siete qui dal Pirelli Store di Corso di Porta Venezia 1 a Milano. A questo proposito, visto che racconteremo, l'altra volta abbiamo raccontato storie legate all'automobilismo, alle automobili, alle corse, sono arrivate un sacco di belle storie. Questa volta invece raccontiamo storie legate al pallone, legate al mondo del calcio. Se quindi avete dato dei calci al pallone, se qualcuno di voi ha qualcosa di interessante da raccontare, se qualcuno ha qualche storia sicuramente legata a una squadra, a un episodio, a una partita, voi siete qui @radio24.it. Altrimenti, se volete semplicemente venire a sentire la diretta, a vederla dal vivo, il 12 di maggio, lunedì 12 di maggio. A breve vi diremo anche come iscrivervi, ci sarà sicuramente un form sul nostro sito. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata. Io vi ricordo che potete scaricare tutti quanti i podcast dal nostro sito radio24.it, altrimenti da iTunes in abbonamento gratuito, o altrimenti, se proprio avete voglia di svegliarvi presto la mattina, noi alle 5:15, puntuali come una schioppettata, siamo in onda con la puntata del giorno prima. Se però uno non la sentite, semplicemente si gode quella. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Grazie soprattutto a Nicola, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Francesco da Bologna e la storia di domani è la mia e parla di un volo non desiderato fatto in montagna. Questa è la mia storia e io sono qui.